Nella giornata di ieri, domenica, ho commentato una frase del Vangelo in cui si diceva che gli apostoli, tornati a casa da Gesù, si sono messi ad aggiornarlo, a condividere le cose che avevano fatto in missione. Oggi, lunedì, trovo il Salmo 144-145, che ha come ritornello questo: una generazione narri all'altra la bontà del Signore. Che è la stessa cosa, no? Una generazione condivida con la generazione che segue, con i propri figli, per esempio, la bontà del Signore. Il Salmo va avanti, io voglio leggervi qualcosa. E poi voglio dirvi due parole di commento. Ti lodino, o Signore, tutte le tue opere. Bello, eh? Il creato che loda il Signore, che racconta e condivide a noi la bellezza di Dio, vedendo la bellezza di un fiore, di un tramonto, di un qualcosa del creaturale, tu dici: se la creatura è così bella, cosa sarà il suo creatore? Quindi la creazione, il creato, le opere di Dio narrano la gloria di Dio. Ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo nome, parlino della tua potenza per far conoscere agli uomini la splendida gloria del tuo regno. Dicano la gloria del tuo regno, parlino della tua potenza. Anche questo è condividere. Mentre io mi preparavo alla celebrazione della messa e leggevo questi, di colpo mi è venuta un'ispirazione. Come io posso raccontare agli altri le bellezze di Dio? Col canto. Con il canto. E infatti, 2 righe dopo, lo stesso Salmo dice: canti la mia bocca la lode del Signore, in eterno e per sempre. Ma questa ispirazione mi è venuta prima ancora che leggessi questo versetto: canti la lode del Signore, la mia bocca. Vi pare cosa da poco? Pensate che per me invece questo cantare una cosa fondamentale. Io ricordo benissimo il primo giorno, la prima domenica che si è riaperte le chiese dopo il lockdown. Io avevo dentro grande gioia per due motivi. Primo, per vedere la mia gente lì in chiesa. Avevo celebrato per tante, tante giornate e settimane da solo. Veder lì la gente mi faceva contento. Ma poi che mi ha preso il cuore è stato il cantare. Il poter cantare insieme per me è stata una gioia, ho detto che bello, che bello. Poi nella mia chiesa si canta bene, si canta volentieri, si canta insieme. Cantare Signore pietà, cantarlo, cantare il gloria. Gloria, gloria in excelsis Deo. E così, no? C'era aperto il portone della chiesa perché, così insomma, vedevo della gente che passava via, chi passava in bici, chi passava col cane, abbiamo una pista ciclabile proprio appena fuori. Quanta gente faceva segno di croce. Passando, qualcuno si è anche fermato a fare il segno di croce. Se noi non avessimo cantato, forse la gente si sarebbe accorta e non accorta. Ecco, amici, io vi suggerirei: cantate, cantate volentieri. Mettetevi d'accordo, due o tre, cantate, ma non ci sia nessuna santa messa, neanche feriale, senza un canto. E poi, se posso, finite la messa con un canto alla Madonna. È la nostra serenata a Maria Santissima. ne sarà contenta. Ciao, ciao.